Questa campagna che appunto si chiama Torri, Tetti e Tortellini, che ai bolognesi acquisiti insomma dovrebbe toccare nel profondo, ha tre linee di azione. La prima è quella di, come dire, aprire alla cittadinanza il dibattito sul diritto all'abitare per le persone senza dimora tramite un centinaio di manifesti che verranno appesi in città. Avranno degli spazi vuoti perché chiunque possa riempire quegli spazi con quello che pensa rispetto a questo tema e che poi riprenderemo insieme in un'assemblea pubblica sull'Homeless Zero in autunno. La seconda linea è quella di creare una rete di negozi solidali, al momento ne abbiamo già una quindicina, che sono disponibili a offrire alle persone senza dimora quelle piccole azioni di prima necessità, quindi l'accesso al bagno, un caffè, l'acqua fresca d'estate, la possibilità di ricaricare il telefono. Sono piccole cose ma molto importanti e di impatto. La terza linea è quella di riuscire a trovare delle case, degli appartamenti per quelle persone che non riescono ad accedere alle strutture di accoglienza perché sono troppo compromesse da tanto tempo in strada, per cui quella risposta purtroppo per loro non è adeguata, mentre noi pensiamo anche dall'esperienza di Housing First che un'accoglienza in appartamento sia un punto di partenza per poi effettuare un cambiamento attraverso un accompagnamento educativo. Al momento le persone che noi abbiamo riscontrato nel nostro lavoro in strada si trovano in questa condizione, sono circa una trentina, per cui il nostro appello anche ai proprietari di casa di Bologna è di trovare una trentina di appartamenti, e lanciamo anche contemporaneamente una raccolta fondi per poter ovviamente coprire i costi che questo tipo di progetti comporta. Quindi un progetto che ne racchiude tre sostanzialmente. Da dove nasce, insomma, quali sono le basi su cui avete deciso di poi costruire questi progetti? Allora, tutto questo nasce a dicembre, dopo la morte del signor Mario in via San Felice. Ne eravamo già consapevoli, ovviamente, perché da tanto tempo lavoriamo in questo ambito, che la vita in strada compromette molto la salute, la qualità di vita delle persone. Da lì, insomma, abbiamo avuto questo scatto anche per dire questo non ci stiamo, non vogliamo più che succeda, e quindi abbiamo deciso di fare una chiamata a tutta la città perché tutti siamo compartecipi nel provare a cambiare e ad arrivare a una città homeless zero un giorno.